la cosa più assurda è che il segnalino, io questa, guarda, voglio spiegato, il segnalino che ha annullato il gol l'aveva dato, non è possibile, veramente, diventa difficile continuare, diventa difficile. Con criterio che aveva arbitro oggi, questo sicuramente doveva fischiare, perché non sono solo questi episodi ma anche diversi gialli che abbiamo preso, perché i primi 5 falli abbiamo preso 5 gialli. Beh, penso di sì, poi si dice che non decidono campionati, ma io penso che in gran parte lo possono fare. Lasciatemi cantare con la chitarra. E regaliamo un bel elmetto anche ad Alberto Cerruti, la penna del calcio sulla Gazzetta. Ciao Alberto. Ciao, buona giornata a tutti. Senti, Pulvirenti stamattina è andato avanti, ha chiesto. Complimenti vivi. Ci vorrebbe la moviola anche per Pulvirenti. Sì, ha chiesto a Danielli che chieda lo 0-3, no? Poi ha chiesto di rigiocare la partita perché tanto sono sicuri di vincerla. E poi non so cos'altro ha chiesto, perché quelle cose di Facebook, sì, sinceramente, io non le ho neanche guardate. Me ne frego abbastanza. Siamo alla solita domenica italiana di arbitri, polemiche, complotti, complottismo. Oggi in giro per l'Italia ci sono un sacco di persone arrabbiate, ma la verità è che senza queste cose noi non ci sappiamo stare. Beh, ma questa è una verità, ma è una triste verità, perché io faccio fatica a capire gli sfoghi della domenica a caldo, ma non tollero gli sfoghi del lunedì a freddo. Sono ancora peggiori secondo me, perché inneschiamo meccanismi di violenza o comunque di sospetti, di complotti che minano la credibilità del calcio, dello sport, e allora ci si chiede perché tutti questi presidenti, parlo in generale, che denunciano i complotti, rimangano nel calcio, investano nel calcio, perché i tifosi vadano a vedere le partite allo stadio o comunque in televisione. Quindi è un grande controsenso, purtroppo è una mentalità sbagliata, contagiosa, che continua a fare del male a tutti noi, a tutto il calcio italiano, e invece di chiederci come mai le nostre squadre in Europa non vanno avanti, noi ci azzuffiamo sulle moviole. Purtroppo con la tecnologia le discussioni si moltiplicano, perché molti di questi casi, non quello dell'annullamento del gol di Bergessio che considero clamoroso, ma molti di questi casi 10 anni fa non sarebbero stati discussi proprio perché la tecnologia non li avrebbe in qualche modo sbagliato. Senti, ma hai anche tu l'impressione che quel signore a fondo campo abbia aumentato la confusione al momento più che risolvere dei problemi? Purtroppo sì, perché ripeto, il caso ieri di Catania è un caso clamoroso, un caso limite che non ha precedenti nel nostro calcio recente. Però è anche vero che l'Italia è il primo paese che ha introdotto i cosiddetti arbitri addizionali, e lo ha fatto con l'intenzione positiva di ridurre le polemiche e di migliorare il calcio. Quindi questo è un fatto positivo. Questo è il primo errore clamoroso. Gli altri errori ci saranno sempre con 2, 3, 5, 10 arbitri, ecco, non dobbiamo mescolare tutto, ci occorrono anche dei distinguo, come un giocatore che fa un bellissimo gol che rimane nella memoria e uno che fa un gol normale. Sono sempre gol, ma sono diversi. Alberto, per chiudere, io ho deciso questa settimana, almeno fino a sabato, di credere nell'Inter sul campo. Sabato andrà a Torino, mi sembra un Inter in grado anche fisicamente di contrastare la Juventus. Ti dico però che non vorrei essere l'arbitro di quella gara, penso nemmeno tu. Ma nessuno, e questo è grave, perché comunque ci vorrà un arbitro, perché bene o male nel calcio gli arbitri ci devono essere, quindi dobbiamo accettare la figura dell'arbitro. Avrà un compito difficilissimo, e come già accaduto in passato, se l'arbitro prenderà un voto sufficiente dai giornali, nessuno dirà niente, sarà un fatto normale. Mentre se scenderà sotto una sufficienza 5, addirittura 4, diventerà il protagonista negativo. facendo passare in secondo piano giocatori che sbagliano gol a porta vuota, allenatori che sbagliano le formazioni, dirigenti che sbagliano gli acquisti. E questo è assolutamente sbagliato. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi. C'è stata non solo la Juventus ma la furia dell'Inter per quel rigore negato a Ranocchia con il Cagliari, era il 19 di novembre. Con noi c'era Marco Castelnuovo, capo servizio politico della Stampa e noto tifoso dell'Inter. Posso dire soltanto che sono tre partite di seguito che, di cui una si è andata bene per grazia di Dio. Sono tre partite di seguito e ci troviamo con delle ingiustizie arbitrali e un atteggiamento arbitrale che ci ha impedito di raggiungere il risultato, quindi tutti, non posso certo star zitto, ma soprattutto lo faccio proprio istintivamente. E con tanto dispiacere, perché non mi piace rientrare in una situazione come quella del passato. Cos'è che le ha dato più fastidio oggi? Ma tutto, cosa vuol che gli dia più fastidio? Alla fine c'era un rigore che era grande a casa, ma dai, ma non scherziamo, dai. Sì, ma no, oggi, dai, no? Non so, chiedo a voi, nella partita con la Juve tutto bene a nostro favore, nella partita con l'Atalanta tutto bene a nostro favore. So, ve lo chiedo a voi, voi siete anche la cronaca, voi siete quelli che seguite il calcio, se volete poi dire come qualche commentatore che forse non era rigore perché non si riesce a capire, tanto per salvare la faccia, a qualcuno, e io molto sinceramente vi dico, voi le vedete le partite, avete la stessa sensazione mia, soltanto che io sono di parte, perché è la parte che è stata danneggiata, e mi sembra che sia il caso anche di spiegarlo, di dirlo e di essere anche arrabbiati. Presidente, ma lei vede un disegno o degli errori? Ma che disegno, ma sono l'incapacità, e se c'è un disegno è gravissimo, ma spero proprio che non ci sia, perché sarebbe più stupido che l'incapacità. Era rigore, è chiaro, non so se fosse grande come una casa, un palazzo, uno stadio o semplicemente come un rigore non dato, scrive Gianni Mura, ritengo che un commentatore qui distante, le parole di Moratti erano riferite a Massimo Mauro e ai suoi dubbi. Ammesso che esiste in questo pollaio, deve evitare di seguire Moratti e ogni tesserato che si esprima da tifoso, tra le altre cose. Io saluto e ringrazio Marco Castelnuovo, di solito impegnato in faccende ben più importanti, capo servizio politico della Stampa, ma tifoso. Buongiorno. Dell'Inter. Buon ciao pomeriggio. Marco. Allora, buongiorno. Era rigore? Non c'è dubbio, va bene? Ci sono dubbi, proprio. Anzi, mi fa specie che ci siano stati commentatori che hanno detto che si poteva dare e si poteva non dare. No, quello sì. È rigore sacrosanto da manuale del calcio. Sì. Iniziamo con togliere questi dubbi, perché sennò se cominciamo già a dire che quello poteva non essere rigore, stiamo parlando veramente di due sport diversi. No, era rigore. Rigore è quando arbitro fischia, diceva Bosco, sì. Giacomelli non ha fischiato, Stramaccioni ha fatto il Mourinho e Moratti ha aperto la casa dei fantasmi. Ecco, questo è un altro paio di maniche, un altro discorso. Assodato quindi che c'era il rigore, ma colpito il fatto che siano ritornati i fantasmi di un tempo, io capisco il Presidente, perché lui ritiene di essere stato danneggiato non solo questa domenica, ma anche la precedente, anche quella precedente ancora. Nonostante, forse anche nonostante ci siano stati dei tratti arbitrali, abbiamo meritato di vincere a Torino e abbiamo meritato sì. di perdere a Bergamo. Sì. Quello che mi fa specie è che insomma, noi per primi andiamo a rivangare un passato che sarebbe meglio non rivangare. Già continuano i nostri, diciamo, avversari più quotati, cioè la Juve, a rivangare i due scudetti, a ribadire che loro hanno 20-30 sul capo, eccetera. Insomma, secondo me ci sarebbe da tutte le parti l'interesse a chiudere questa brutta parentesi del calcio e a parlare un po' di futuro, a parlare di quello che ci sarà e non a rivangare il passato. Sì, poi c'è qualcuno che mi scrive, Ferdinando, era un rigore grosso come quello di Guarin su Gomez, riferendosi a Inter Catania. Allora, mettiamo le cose subito in chiaro. Per me ha fatto benissimo, quello su Catania era rigore, ha fatto benissimo il Catania a fare la pagnolata una volta, una settimana dopo, perché effettivamente ha subito dei torti. Non dimentichiamo il gol di Berghessi annullato contro la Juve, sì. Non dimentichiamo quello, perché di quello non si parla più. è evidente che ci siano dei torti arbitrali a favore o contro delle squadre, è evidente che le grandi vengono favorite rispetto alle piccole, ed è evidente che tra le grandi ci sono delle grandi che i torti arbitrali non li subiscono mai o quasi mai, e chi invece subisce un po' di più. Marco, io ti chiedo ancora questo, ma poco importa in fondo, guardando la partita di ieri, lasciando quel rigore grosso come una casa, sì, o come quello che vuoi, poco importa che Handanovic sia stato il migliore in campo, se evitiamo di sbriciolare la partita negli episodi, il Cagliari non ha rubato noi niente. Guarda, io penso che ieri la partita si poteva perdere o pareggiare. Vincere sarebbe stato, non dico un furto, ma sicuramente sarebbe stato un bel regalo, perché l'Inter, pur avendo fatto tanto gioco, non meritava di vincere la partita. C'è stato veramente un gran bel Cagliari, quindi io non ce l'ho con il risultato, non ce l'ho con la prestazione eccetera. Io però mi rendo conto che tutte le volte, quasi tutte le partite, ci sono delle decisioni arbitrali giuste, cioè sbagliate, che determinano e falsano il corso della gara. Perché quante volte l'Inter di Mourinho mica giocava bene, sarà mica stata una grande squadra l'Inter di Mourinho in quanto a gioco, eppure le vinceva tutte. Quindi non è che poi alla fine chi vince è chi gioca meglio, vince chi fa il risultato. E voglio dire, ieri l'Inter avrebbe potuto vincere una partita che probabilmente sul campo non avrebbe meritato di vincere, se fosse stato dato il suo, non di più, il suo. Sono le regole. Salviamo Milano dal sole, salviamo dalle troppe parole. Questa partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Ho cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile, ed è anche fastidioso sentire fare dell'ironia anche prima della partita dai dirigenti della Juventus sull'atteggiamento tattico dell'Inter, però loro sono fatti così, va bene così. Penso che poi a fine partita magari la pensa diversamente il dottor Marotta, però a me ha dato fastidio in maniera ironica con cui è stato detto. Chissà se ancora la pensa così a fischio finale, cioè, io credo ci voglia rispetto in generale. Buon pomeriggio a tutti. Stamattina è passato di qui Enrico Ruggeri, l'avrete sentito nella trasmissione di Nicoletta Carbone. Ce lo siamo tenuti 5 minuti perché oggi è un lunedì da tifosi. Il lunedì che non ti aspetti, caro Enrico Ruggeri. Il lunedì, ciao. Che non ti aspetti, lunedì che sogni, insomma, a seguito di della partita che drammaturgicamente risulta perfetta, almeno vista dalla parte dell'interista. Sì, lunedì che non ti aspetti arriva sul ponte delle castagne, dei crisantemi, ma anche di Halloween, dove ogni travestimento vale. Certo, no, non credo che sia lunedì, come dire, foriero di una vittoria di uno scudetto. Però quel sabato lì è un sabato che ci ricorderemo a lungo. Sì, sai cosa pensavo anche? Che Stramaccioni si sta avvicinando al Vate Mourinho, non solo nei numeri, nel rendimento, eccetera, eccetera, ma anche in una pericolosa tendenza ad essere molto permaloso. Ma sì, io devo dire che ho trovato un po' beffardamente arrogante la battuta di Marotta. Spensierato vuol dire senza pensieri, e un allenatore non può essere senza pensieri perché deve pensare alla partita. Stramaccioni risponde: io ho preparato la partita in ogni centimetro quadrato del campo, perché essendo un allenatore giovane giustamente si adombra quando viene messa in dubbio la sua professionalità, che è l'unico patrimonio che lui possiede, perché non ha un palmarès, ha solo della professionalità, e quindi è giusto che si difenda, quindi sto dalla sua parte. Mancherebbe altro. Verrà poi il momento dell'ironia, ma l'ironia la si respirava quando Stramaccioni dice: chissà se alla fine della partita la pensa ancora così. Ah, tutti convocati, 800240024 come ogni giorno. Enrico Ruggeri, ti faccio sentire una cosa. Giovinco dentro, Sbergucinic dentro ancora per Asamoah, posizione regolare, Asamoah in area di rigore, prova il destro, Arturo! Vidal! 18 secondi! 18 secondi per la Juve in vantaggio! Era fuori gioco! posizione regolare. Posizione ma regolare poi... neanche tanto. Cosa hai pensato? Ma no, francamente non me ne sono accorto neanch'io in quel momento. Sarà che avevo, mi ero appena seduto, ma non mi ero accorto del fuorigioco di Asamoah. E comunque non lo ritengo una cosa gravissima come quella di Steiner dopo, perché lì vuol dire prendere la decisione, ho paura di espellerlo, chissà cosa mi dicono, insomma c'è tutta una dietrologia pericolosissima sulla non espulsione di Lichtsteiner. Sul fuorigioco diciamo che non l'ha visto, non l'ha visto. Lichtsteiner subito sostituito, questo come dire è un'ammissione di colpa, so benissimo che andava espulso, ammissione di colpa, e questo credo che abbia condizionato anche un po' poi l'andamento dell'arbitraggio. Un'altra cosa, è uno schema trattenuta su Milito, calcio di rigore. Diego è il principe Milito, 1-1. Cosa hai fatto? Ma io sono uno compassato, non sono uno che urla, che sbraita. Però hai detto era nella... meritato. Meritato, ma era nell'aria perché in altri anni altre Inter si sarebbero sfaldate. Prendi un gol dopo 18 secondi. Oltretutto poi ti vengono sicuramente dopo un po' gli avranno detto che era in fuorigioco, poi succede la cosa di Lichtsteiner, quindi quella ineluttabilità che a volte prende la squadra dell'Inter, cioè tanto non ce la faremo mai, avrebbe potuto portarla alla deriva. Tante volte è capitato all'Inter di non essere in grado di reagire a un'ingiustizia o a un colpo di sfortuna o a un gol preso, eccetera. È uno delle, spesso l'Inter è stato uno psicodramma, quindi la grande forza di Stramaccioni è stata sicuramente questa. Altre Inter sarebbero naufragate lì. E poi? Ancora Nagatomo, palla al piede, sempre Nagatomo, prova a liberarsi, Palacio, Buffon, Rodrigo! Palacio! E questo è quello della liberazione. Questo è il gol della liberazione, va detto, ecco, Nagatomo è la prova che la costanza, la dedizione, quell'aria un po' da giapponese monotematico, sì, sulla voglia di fare integralista, è la prova che anche se non hai delle qualità genetiche grandi, ce la puoi fare nel calcio. Non diventerai Messi, ma puoi diventare Nagatomo, che entra in area, perde la palla, la riconquista, cade, si rialza, in tutta quell'epopea di quei 5-6 secondi in cui Nagatomo prima non è riuscito a segnare ma alla fine è riuscito a dare la palla a Palacio, c'è proprio la vita di Nagatomo, secondo me. Poi queste tre punte, finché Cassano ha la luna giusta e finché gli lasciano vicino Nagatomo, in cui si parlano in continuazione senza capirsi, Cassano così te l'aspettavi? Ma ci credevo, devo durerà dire. Ma non lo so, il problema dell'Inter, se vogliamo per un attimo per assurdo parlare di scudetto, è che mentre la Juventus ha 22 giocatori di primissima fascia, l'Inter ne ha 15-16. Questa è la differenza vera. La Juve non ha Jonathan, non ha gli Alvarez, eccetera, ha solo giocatori che possono tenere tutta una stagione. Per quanto riguarda il tridente, ormai dipende da come le interpreti. Spesso la gente è portata a 4-3-3, allora attaccano, mentre a volte ci sono dei 4-5-1 che diventano 4-3-3, o addirittura diventano 2-5-3 come al calcio Balilla. Io ste storie dei numerini le per ho. Cui per me si gioca 5-5-5, come diceva Oronzo Canà. Dipende, cioè Cambiasso schierato in coppa come centrale di offensivo, cos'è? Fa parte dei tre della difesa o del centrocampo? Per cui in realtà insomma il calcio è un po' più complesso che non i moduli, sì, come al Subbuteo. Ma sicuro. Enrico, ti faccio un'ultima domanda e poi ti saluto e ti ringrazio. Chi vince lo scudetto? Temo la Juve però se l'Inter lo vincesse sarebbe una fiaba meravigliosa, come sarebbe una meravigliosa fiaba se lo vincesse il Napoli. Se lo vince la Juve è la realtà. Napoli sembra un po' prigioniero delle sue angosce. Sì, la penso anch'io così, però sarebbe come bello. Si dice a Milano, le dura. Le dura. Però e per il Milan bello. Le dura ancora di più. No, però il Milan recupererà. Ma cosa dici? Beh, non arriva. Recupera cosa? Arriva quinto. Due settimane fa era a due punti dal baratro. Importante far giocare quelli vivi. Far giocare quelli vivi e mettersi bene d'accordo squadra e allenatore, che non credo che siano in perfetta sintonia. No, quando tutti continuano a dire che sono in sintonia, vuol dire che c'è qualche problema. Cosa che non va. Grazie, Enrico. Grazie a voi. Un tifoso juventino, Gilletti, che invece ovviamente la vedeva in un altro modo. Tutti convocati. Convocati siete tutti voi, anche Massimo Gilletti, che ha passato una domenica in bianco. Beh, ma ne ho passate 49 bianco e nero. Ne hai passato 49 in bianco e nero, ci sta, almeno per la legge dei grandi numeri. Massimo, tu sei arrabbiato perché oggi? No, io sono arrabbiato, questa squadra mi ha riportato in alto dopo tanto tempo. Sono un po' scettico su certe scelte, per esempio Bender mi sembra un giocatore che non serve assolutamente a nulla proprio per il gioco che ha la Juventus. E quindi quando vedo magari Quagliarella stare in panchina e fare entrare Bender, qualche dubbio mi viene. Poi si può discutere su Pogba usato o non usato, però quella che la differenza è che la Juve non saliva nel primo tempo. Sì. C'erano le punte molto isolate e lì mi preoccupa un po' di più. Tu sei d'accordo sul fatto che quei due errori arbitrali alla fine abbiano penalizzato la Juventus tra tablet, voci, eccetera, eccetera? Sì, ma chi gioca a calcio tra un primo tempo e un secondo tempo non ci pensi neanche, anzi lo archivi, te lo porti a casa, stai zitto. E non c'entra niente, la differenza è che quelli dell'Inter avevano voglia di vincere e di giocarsela. La Juve ha arretrato in modo stranamente, anche se quest'anno l'ha fatto più di una volta, il baricentro era tutto spostato dietro dopo il gol. Questo non è la Juventus normale. Ma in questo c'entra qualcosa l'assenza di Conte dalla panchina? Io continuo a pensare di no. Io invece continuo a pensare diversamente, cioè dico, questa squadra sta facendo i miracoli non avendo l'anima di Conte. Non gioca come una volta la Juventus, fin dall'inizio dell'anno. Insomma, Bologna l'abbiamo preso 92esima, Catania sappiamo com'è andata, e in altre situazioni abbiamo fatto fatica. Secondo me la presenza di Conte è determinante invece in panchina. Ti fa paura l'Inter in prospettiva scudetto? L'Inter ha trovato un sistema di gioco che ha un Milito molto importante, realizzatore. Poi la Juve non riesce mai a trovare un giocatore che... Non c'è nessuno dei giocatori di Juventus nei primi. E questo è anche vero rispetto allo scorso anno, non sembra che quello che segna di più forse è Matri, non mi ricordo. Però è preoccupante nel momento in cui la squadra non è a livello. Allora un giocatore importante ti fa la differenza in attacco. Sì, no, questo non c'è dubbio, alla ricerca del solito top player, che però potrebbe essere questo Pogba che vedo, che io avrei visto anche l'altra sera in una partita che si era messa in quella maniera, insomma. Ma probabilmente ha pesato il cambio di Steiner, lì si è trovato in difficoltà e avendo dovuto bruciare già un cambio. No, io sono preoccupato perché la squadra dopo l'1-0 non appoggiava le due punte, cioè sì. Ci sono delle immagini abbastanza chiare dove sia Vucic che Giovinco partono e si guardano un po' intorno e non hanno nessuno dei due centrocampisti, compreso Pirlo, dei tre che sale. Sì. E lo stesso Asamoah era lontanissimo. E questa è la cosa un po' più preoccupante. Poi la partita la puoi perdere, abbiamo preso due contropiedi in spazi aperti. Sì, l'Inter ha dominato, cioè l'Inter ha dominato anche sul piano della preparazione della partita, a parte il fatto che secondo me stanno molto meglio fisicamente, questo è... Sì, questo, ma questo ci può stare, hanno impegni minori, no? Vedi che anche il Napoli è in difficoltà fisica, sì. Probabilmente c'è chi ha fatto un certo tipo di lavoro, ma soprattutto il fatto di non avere la Coppa aiuta, lo sapevamo benissimo, non è che non scopriamo oggi. Per chiudere, Massimo, quelle parole di Marotta a me sono sembrate abbastanza irrelevanti, anzi mi sono sembrate corrette. Ha detto che l'Inter ma fa benissimo a giocare in modo spensierato, perché deve giocare in modo spensierato, perché non è la favorita dello scudetto, e ha preparato la partita andando a Torino e facendo vedere: guardate, non abbiamo paura di voi, ecco le nostre tre punte, l'attacco più forte del campionato, tra l'altro una con caratteristiche diverse dall'altra, stanno benissimo, giocano tutti uno contro uno e sono fatti vostri, o no? l'esegesi delle parole porta poi a un tipo di analisi che è addirittura dicotomica, per dire, sì, parole grosse, cioè può essere l'opposto di quello che uno vuol dire, no? Sì. Ma conoscendo Marotta, secondo me, io la interpreto come lo dici tu, cioè l'Inter ha questa follia di giocarsela così. Sì, che sì, obiettivamente, sì, sulla cara, se voi vedete a Zanetti, che è una domanda che gli hanno fatto, ma quando ve l'ha comunicato, Zanetti ha fatto uno sguardo come dire cazzo, saranno problemi nostri. Quindi è in quella spensieratezza invece che sei, si può vincere, perché sorprendi e, certo, hai davanti qualcuno che fa gol. Nuovo fermi per le strade, poi torniamo insieme per il gran finale. Presidente, assolutamente convocato. Tutti convocati. Adesso andiamo da un allenatore molto bravo che sta facendo di nuovo molto bene con una squadra abituata alle penalizzazioni. È Colantuono, 12 novembre. Il giorno dopo aver battuto proprio l'Inter, che era in quel momento, dopo il successo di Torino, la squadra del momento. Con questa canzone, con questo motivo nelle orecchie, l'Atalanta entra in campo all'Azzurri d'Italia dopo che Stefano Colantuono gli ha dato una bella carica. E allora come si fa a non mangiare l'erba? Stefano Colantuono, buongiorno. Buongiorno a tutti. Complimenti. Grazie mille, grazie, molto gentili. Se, adesso diranno che avete giocato per la Juventus. No, abbiamo giocato per me stessi, perché sono punti che ci serviranno nei momenti magari meno brillanti, quindi sono punti per noi. Sono punti per voi, naturalmente, che ne avete già una valanga, 20, mi viene quasi voglia di dire, l'ho detto l'altro giorno a Marino, che è stato nostro ospite, sì, mi viene quasi voglia di dire che le penalizzazioni vi vanno bene, vi fanno partire come le schegge. Sì, diciamo che insomma è una cosa che si è ripresentata anche quest'anno, magari inferiore nel numero di punti di penalizzazione, però comunque sempre penalizzazione, e per una squadra che parte in questo campionato con una penalizzazione non è mai facile, però dire che la squadra ha risposto alla grande, quindi sono molto contento di questo. Per curiosità, come aveva preparato questa partita? Il giorno dopo lo si può spiegare? Noi? Sì. Si riferisce. Ma l'abbiamo preparata in maniera un po' ampia, perché non sapevamo come l'Inter potesse giocare a livello di sistema di gioco, intendo. Ero convinto che gli 11 fossero stati quelli, però poi come? Perché l'Inter ci ha abituato, insomma, ad essere un po' camaleontica. Ha giocato col 4-4-2, ha giocato in alcune circostanze col trequartista, nell'ultimo periodo faceva il 3-4-3, però avendo qualche defezione forse ci poteva essere qualcosa di diverso, che poi così è stato, infatti si sono presentati inizialmente con un 4-3-3, però eravamo un po' pronti a tutto, e direi che sono stati bravi i ragazzi, perché questa settimana lavorare su vari sistemi di gioco non è stato poi molto facile, però direi che l'abbiamo fatto in maniera perfetta. Sì, direi di sì. Spiazzato dalla difesa 4 di Stramaccioni, mancavano no. Ranocchi e Samuel, che sono comunque due giocatori importanti. Sì, beh certo, ci mancherebbe, poi l'Inter aveva qualche defezione, però ci aspettavamo, era una probabilità la difesa 4, magari io pensavo più con un 4-4-2, dico la verità, non pensavo si potesse presentare con un 4-3-3, invece poi mi ha stupito, perché non ha voluto rinunciare ai tre d'attacco e ha fatto un 4-3-3. Tanto la Juventus ha risposto con 10 gol in due partite, mi sembra onestamente inattaccabile in questo campionato, a meno che l'Inter non resista e non allunghi a gennaio la sua panchina, il personale e anche la qualità dei giocatori. Ma dico che la Juventus è sempre la squadra più forte, perché ha dimostrato una grande mentalità lo scorso anno, quest'anno tutto sommato tolto lo scivolone con l'Inter in casa, insomma ha dimostrato di essere la squadra ancora più forte, anche se devo dire che l'Inter e il Napoli potranno dargli fastidio fino alla fine. 20 gol, 20 punti fatti quest'anno senza i gol di Dennis, che ha ricominciato ieri, mi pare. Sì. Sembra quasi, dicevo, che la partenza d'handicap vi faccia bene. Non ci sono i gol di Dennis, avete trovato molte altre soluzioni. Sì, gioco forza, perché German comunque ci ha dato una grande mano, perché è un giocatore che anche quando non segna aiuta molto. Però è chiaro, ci aveva abituato bene lo scorso anno, era partito subito in maniera brillante. Quest'anno è stato anche molto sfortunato, c'è da dire, ha preso due pali, ha avuto delle situazioni non finalizzate per un non nulla, e ora ieri ha ricominciato il suo cammino e il suo trend, che credo sarà poi